Ed eccoci di nuovo in diretta, vediamo se il compagno ci ascolta. È tutto ok? Ci senti? Ecco, eccomi. Buon ciao a tutti e a tutti. Come va? Molto bene, molto bene. Un piacere, insomma, sentirvi oggi, diciamo. Sì, finalmente diamo questa bella notizia. Ne abbiamo parlato spesso qui in radio del caso del prof, come del caso degli altri prigionieri politici in Messico, e finalmente diamo la notizia che il prof è stato liberato, è stata data la grazia e è uscito di galera. Vuoi spiegarci un po' come questo è avvenuto e anche della liberazione degli altri prigionieri politici? Sì, come no. Allora, vabbè, avevamo già accennato questo giovedì scorso nel programma Le Schiene del Sol, e poco prima, appunto, che incrociando le dita che avvenisse la liberazione, che è avvenuta alle 6 di sera ora italiana del giovedì scorso, almeno là c'è stata la conferenza stampa e la consegna dell'atto di liberazione. E faccio un attimo il riassunto di quello che è successo negli ultimi mesi per capire un attimo quello che è successo la scorsa settimana: l'inaspettata liberazione del prof. Patistan, inaspettata o meno liberazione del prof. Patistan, perché è una cosa molto particolare. Il prof. Patistan se ne è già parlato molto spesso su La Rossa, che ha partecipato a tutte le campagne, insomma, per la liberazione del prof. e degli altri prigionieri politici e politiche in Messico, in Chiapas soprattutto. Il prof. era rinchiuso da 13 anni carceri sia del Chiapas che del resto del Messico, condannato a 60 anni di carcere per un delitto ovviamente mai commesso, l'omicidio di 6 poliziotti nella sua comunità del Bosque nel di Chiapas. E 13 anni, appunto, da attivista. Guarda, si sente un po' disturbato, tu ci senti bene? Sì. Si sento. Adesso sì. Meglio? Adesso meglio, sì. Ok, 13 anni vissuti appunto da attivista e da militante, appunto, e da aderente alla stessa dichiarazione della Selva La Candona in carcere, organizzando insomma assieme agli altri detenuti e detenute politiche varie mobilitazioni all'interno di questo lungo arco di tempo, da scioperi della fame a mobilitazioni dentro il carcere, a gravi denunce della situazione che riguarda i detenuti e detenute nelle carceri messicane. Ricordiamo, nel 2006 lui è protagonista di uno sciopero della fame nel quale vengono liberati più di un centinaio di detenuti tranne lui. L'accanimento, appunto, dello Stato messicano sulla figura di Alberto Patistan era parecchio forte, anche perché una figura, diciamo, particolarmente scomoda, insomma, per la forza delle sue denunce. E vive un altro sciopero della fame diversi anni dopo e non porta nessuna conseguenza, nessun atto di clemenza, diciamo, nei confronti del suo caso da parte del governo messicano. Quest'anno in Messico c'è stato un cambio di governo. Dopo anni è tornato il PRI, il partito che ha governato per 70 anni consecutivi in Messico, un partito di corrottissimo, di estrema destra, che ritorna, appunto, ritorna a comandare in Messico dopo diversi anni. E questo è l'anno, appunto, non solo del ritorno del PRI, ma anche dell'intensificarsi delle mobilitazioni dei movimenti sociali aderenti alla sesta e non solo in Messico per quanto riguarda la questione dei prigionieri politici. E il governo si trova subito, diciamo, abbastanza alle strette da questo punto di vista, insomma, una risposta la doveva dare, o negativa o positiva, anche perché le mobilitazioni diventavano non solo nazionali ma internazionali. Ricordiamo, oltre ai movimenti di tutto il mondo, movimenti di base di tutto il mondo auto-organizzati che accompagnavano le lotte dei prigionieri politici in Messico, anche le voci di Mumia Bucamala, Noam Chomsky, John Merger e vari personaggi che da tutto il mondo reclamavano a gran voce la libertà del prof. Patistan e degli altri prigionieri e prigioniere che appartenevano ai collettivi La Voce della Mate e Solidarios della Voce della Mate. E quindi subito succede che a maggio, subito dopo, pochi mesi dopo il ritorno del primo governo, il governatore Velasco decide di liberare 12 prigionieri nei carceri di San Cristobal e La Mate. Uno è Rosario Diaz Mendes della Voz de la Mate, gli altri sono 11 compagni dei solidari della Voz de la Mate, fra cui Rosa, della quale si è spesso parlato qua su Radio Onda Rossa. E questo è già un primo momento di festa, insomma, per tutte e tutti quanti, perché comunque riteniamo che anche questa liberazione sia dovuta alle pressioni che ha esercitato la mobilitazione popolare, che ha invocato la libertà per tutti i compagni, certo, detenuti. E ora che succede? Nei mesi successivi a questa liberazione il presidente Peña Nieto prova a corteggiare fra virgolette Pakistan e invocandolo di chiedergli la grazia, ovvero esiste una legge in Messico, come più o meno penso sia molto simile a quella italiana, che in caso di richiesta l'ultimo appello alla libertà di un prigioniero sia la grazia presidenziale. Tutti i gradi di giudizio del codice penale della Costituzione messicana avevano rifiutato la revisione del processo al proprio Pakistan. Rimanevano solo due soluzioni: o la Corte Interamericana, che era una corte extra nazionale messicana, un po' simile diciamo alla Corte dell'Aia, mettiamola così, qualcosa di equivalente in Centro America, che rivedesse il caso e dasse delle indicazioni al governo messicano, o la possibilità di richiedere la grazia direttamente al presidente, che aveva espresso che l'avrebbe concessa. Ovviamente l'atteggiamento di Alberto è stato quello di assolutamente rifiutarsi, in quanto innocente, di richiedere la grazia, diciamo questa piccola elemosina al presidente messicano, e ha sempre negato questo tipo di possibilità. La mobilitazione è continuata e Alberto ha continuato a denunciare non solo il suo caso, ma i casi anche di tutti quanti gli altri, e finché a un certo punto, per le pressioni che sono state che si sono portate avanti negli ultimi proprio mesi, il Parlamento messicano decide di intraprendere una discussione che portasse a una riforma costituzionale. Una riforma costituzionale nella quale si prevedesse l'immediata libertà per tutte e tutti coloro che subissero gravi violazioni di diritti umani durante il processo, gravi vizi di forma o irregolarità diffuse. Questo ovviamente è un riassunto poi di tutte le caratteristiche del processo Pakistan, e non solo il suo, ma di quello di tantissime altre, insomma, compagni e compagni indigeni reclusi nei carceri messicani. Per fare un esempio, la mancanza di traduttore durante gli interrogatori e durante le dichiarazioni, e tantissimi non parlano spagnolo ma parlano solo le lingue tradizionali indigene, e tantissime altre, insomma, esempi di irregolarità, e le torture, tantissimi vengono sottoposti a tortura o firmano dichiarazioni in bianco. Queste sono tutte elementi che viziano gravemente i risultati di un processo. Votano questo tipo di riforma costituzionale e automaticamente viene concesso un indulto. Ora, sulla questione di grazia, indulto sono parole e traduzioni molto, molto sensibili, diciamo. Non è stata concessa una grazia, in messicano viene considerato un indulto. Quello che è fondamentale, cioè quello che è fondamentale, che è stato rivendicato da tutti e da tutte, anche da Alberto, è stato che fondamentalmente loro ancora, il mondo politico messicano ovviamente si rifiuta di riconoscere l'innocenza completa del proprio Pakistan, perché sarebbe uno smacco non indifferente nei loro confronti e nei confronti di 13 anni di abuso nei confronti del profe. Però automaticamente in questo modo il prof esce libero all'immediato e si ammette da parte dello Stato messicano, ammettendo quindi le gravi irregolarità nella fase processuale, una sorta di ammissione di ingiustizia nei confronti del prof Alberto Pakistan. Questo è fondamentale. In questo modo Alberto non ha mai dovuto chiedere la grazia, non è uscito assolutamente chiedendo la grazia al presidente Peña Nieto, ma è stata ammessa pubblicamente da parte del governo messicano una serie di irregolarità nel processo, e fondamentalmente, facendo insomma 2 più 2, se ci sono irregolarità nel processo, il processo è gravemente viziato, il prof è innocente. Certo. Almeno questo è quello, insomma, che vogliamo dire pubblicamente, e che ribadiamo pubblicamente, sia e che ribadisco a tutti i collettivi e tutte le organizzazioni che hanno partecipato alle campagne per la liberazione di Alberto. E sono stati liberati anche altri prigionieri politici, o sbaglio? In questa occasione è stato liberato Alberto, anche se negli ultimi mesi si assisteva alla liberazione di altri prigionieri politici. Okay. Che dicevamo prima, dei solidari della Voce della Madre e della Voce della Madre. Quello che sta succedendo adesso è che ovviamente in Messico si è stimato un numero approssimativo di 8.000 casi di compagni e compagne indigene reclusi insomma nelle carceri messicane, che hanno le stesse caratteristiche del proprio Pakistan, quindi adesso si dovrà applicare anche a loro. Certo. Fortunatamente questo tipo di procedimento, quindi cioè, se la coerenza insomma non è un'opinione, a questo punto dobbiamo aspettiamo che vengano liberate più di 8.000 persone in tutto il Messico. Dei due collettivi in Chiapas rimangono tre compagni incarcerati, che sono Alejandro nel carcere San Cristobal, nel Solidarios de la Voz de la Mate, e altri due solidarios sono Antonio Estrada e Miguel de Mesa, che sono in altri due carceri di due compagni della comunità di San Sebastián Bachacón, in altri due carceri dello Stato Chiapaneco. Quindi ovviamente la lotta oggi si ferma, diciamo, per brindare e sorridere un po', anche se sappiamo che non sarà finita finché non libereremo anche questi altri tre compagni e tutti i prigionieri politici in tutto il mondo. Chiaro. Dai, su, ci spero vediamo. Spero di aver fatto un breve riassunto della situazione. Volevo solo dire che una cosa che ci piaceva insomma ribadire, che comunque il giorno della liberazione del prof. Pakistan, Alberto comunque era presente anche il Presidente della Repubblica Messicana Peña Nieto, e Alberto non ha mai smesso, anche durante la conferenza stampa, di denunciare quello che è successo a lui in questi 13 anni e quello che continua quotidianamente a succedere per quanto riguarda sia i prigionieri politici che le realtà indigene all'interno della Repubblica Messicana. Ad accoglierlo infatti c'erano i compagni e le compagne di Salvador Dadenco e Nacho del Valle e tutti i compagni del Fronte Liberazione della Terra, appunto, che hanno seguito da vicino il caso e che sono stati parecchio vicino anche al proprio Pakistan. Sì, è chiaro che quello che è avvenuto non è avvenuto perché qualcuno ha elemosinato una concessione al presidente, ma è frutto di una lotta e di rivendicazioni che non fanno nessuna concessione al governo messicano. Chiaramente una lotta che dura poi da 13 anni, insomma, quindi è abbastanza duratura nel tempo. Certo, noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto, spero, su queste frequenze. Un saluto, quindi a presto. Un abbraccio a tutte e tutti, un abbraccio anche ai compagni lì presenti che stanno organizzando l'iniziativa al Metropolis sabato, cui penso parteciperemo anche noi, se non mi sbaglio. Bene, allora ci vediamo. Sì, ok. Sì,